più che modificarsi il tema della violenza in sé, si è modificato tutta una serie di, diciamo, misure di aiuto nei confronti delle donne, perché ovviamente il Covid ce lo impone e perché ovviamente le donne fanno più fatica a raggiungerci. Per dirvi brevemente, quando c'è stato il lockdown, il primo lockdown, noi abbiamo avuto per la prima volta nella storia di questi 30 anni, secondo me, un mutismo totale del telefono. Quindi abbiamo letto questa cosa come una impossibilità da parte delle donne di contattarci, perché ovviamente erano a stretto contatto e chiuse in casa con il maltrattante. E quindi ovviamente questo ha creato tutta una serie di preoccupazioni, nonché attivazioni da parte nostra per venire incontro alle donne in questo senso. Devo dire che questo mutismo è durato poco, eh? Cioè, nel senso che nel giro poi di 2 o 3 settimane, pian piano sono ripartiti i contatti da parte delle donne, perché poi anche le donne hanno moltissime risorse e si sono anche inventate come poter trovare uno spazio più autonomo per poter chiedere aiuto. Nel frattempo, però, appunto, la Casa delle Donne si è subito ingegnata per attivare le videochiamate, i colloqui telefonici attraverso strumenti di supporto, e abbiamo attivato subito un numero WhatsApp perché tante donne ci raccontavano della difficoltà appunto di riuscire a parlare, perché altrimenti lui in casa poteva sentire, e quindi l'idea era permettere loro di scrivere attraverso una chat, che pian piano, devo dire, anche quello con un tempo, diciamo, dilatato ha preso piede. Quindi è diventato un altro numero attraverso il quale ci contattano. Quindi abbiamo lo 051-333-173 e il cellulare. Il focus di questo seminario sarà invece incentrato sulla condizione delle persone anziane. Quali sono le specificità che il fenomeno assume nella terza età? Allora, devo dire che noi, per darvi un po' un quadro del tipo di, diciamo, capienza che abbiamo anche di contatti nuovi, di percorsi delle donne, mi preme darvi dei numeri. Sicuramente una media di 700 donne nuove all'anno sono quelle che ci contattano. No? Che ci contattano per la prima volta, che ci contattano per chiedere un'informazione o una consulenza. Una buona parte, circa i 2/3, più dei 2/3, diventa poi un vero e proprio percorso, quindi un sostegno emotivo, un sostegno di protezione, tutta una parte riservata a un piano di sicurezza e alla consulenza legale, nonché proprio a un lavoro di empowerment sul riconoscimento delle violenze subite. Devo dire che negli anni anche il numero delle donne over 60, per capirci un po', per darci un po' una fascia media, è aumentato. Per darvi un po' di numeri, nel 2018 erano circa 37 le donne over 60, nel 2019 sono diventate 45, nel 2020 siamo arrivate a 50. Chiaramente su un monte di 700 donne sono, insomma, non sono numeri altissimi, ma rispetto a al fenomeno della violenza sulle donne in età più adulta, insomma over 60, è un indicatore molto importante, perché le donne che sono avanti con l'età fanno più fatica a chiedere aiuto, perché appunto hanno probabilmente anche meno risorse, sia da un punto di vista, di salute, economico. Molto spesso sono donne in pensione con delle pensioni molto irrisorie, molto spesso non hanno la pensione e dipendono dai maltrattanti economicamente, quindi molto spesso c'è un'autocastrazione a chiedere aiuto, perché pensano proprio di non poter essere aiutate. Negli anni, appunto, abbiamo visto crescere questo numero, e ovviamente sono casi, la maggior parte sono casi relativi a parti, quindi o mariti o compagni maltrattanti, che potete immaginare sono sempre stati maltrattanti, continuano a esserlo anche appunto durante la convivenza in tarda età, oppure possono essere anche figli, figli che magari hanno anche oltre a dinamiche di aggressività e violenza anche problematiche legate a disturbi psichiatrici o a disturbi di dipendenza che si rivolgono sulla madre fisicamente, psicologicamente per, non so, chiedere dei soldi piuttosto che imporsi rispetto a una dinamica di convivenza. E in ultimo anche sempre più si sta facendo strada la figura del badante, che è comunque un partner all'interno di relazione intima, perché sono donne che possono subire violenza o addirittura essere uccise da colui che si prende cura di lei. Quindi un tema che secondo noi ha bisogno di essere maggiormente esplorato. Negli anni appunto la ricerca sul femminicidio del 2019 ha aggiunto questa voce, quella del badante, tra i vari partner come autori del femminicidio, e questo per dire che si sta accentuando l'attenzione su questa fascia d'età.